il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Abbiamo parlato spesso nella nostra trasmissione di prodotti tipici e qualche volta anche di gastronomia. Oggi vogliamo provare a mettere assieme le due cose e nell'ottica della nostra trasmissione, appunto, che si occupa di agricoltura e di sostenibilità a tutto tondo, ci chiediamo come la ristorazione moderna riscopre i prodotti tipici che sono per lo più frutto di coltivazione, appunto, di allevamento. Come la ristorazione moderna, come i piatti proposti soprattutto dalla ristorazione della nostra regione dialoga con l'agricoltura e in qualche modo la promuove. Allora cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando. Lo facciamo oggi con una ospite un po' d'eccezione. È una collega, una blogger esperta di cucina, ma è addirittura la presidente dell'Associazione Italiana Food Blogger, AIFB, è di Venezia e si chiama Anna Maria Pellegrino. Benvenuta in trasmissione. Grazie e benvenuti a voi nella mia cucina, anzi. Ecco, il tuo blog si chiama La Cucina di QB, che immagino QB Stia per... Quanto basta, il classico acronimo che di solito fa impazzire tutti coloro i quali si approcciano alla cucina alle prime armi. Poi con il tempo ti rendi conto che il QB, appunto, il quanto basta, è una sensibilità raggiunta, una sensibilità maggiore. Diciamo subito che cos'è questa associazione di food blogger e che cosa sono i food blogger. Il blog è in realtà un diario, quindi il food blog è il diario di qualcuno che ama particolarmente il cibo e ne racconta. È un'esperienza che nasce ovviamente dagli Stati Uniti una decina di anni fa e poi è tornata anche qui da noi, è venuta, anzi in realtà è stata scoperta qui da noi. Si può dire che i primi blog che hanno cominciato a parlare e a raccontare di cucina sono nati attorno al 2004-2005, un po' al seguito dei forum delle varie testate di cucina, tipo La Cucina Italiana per esempio, no? Quindi c'erano tutta una serie di forum dove si ponevano delle domande, si sostenevano delle discussioni e successivamente poi chi cominciava ad avere un certo tipo di ruolo di leader all'interno di questi forum ha deciso di aprire un blog. Da lì poi ne sono nati via via nel tempo e fino a... due anni fa, al Salone del Gusto e Terra Madre di due anni fa, del 2012, si organizzò proprio grazie a Slow Food una conferenza che si chiamava appunto Gastronomia 2.0. Io fui invitata come relatrice e da lì con delle altre persone che poi sono diventati i soci fondatori appunto della nostra associazione è nata l'idea: ma perché non creiamo un'associazione? E tu mi dirai: c'era bisogno dell'ennesima associazione in Italia? E io ti posso rispondere, in questo caso sì, perché tu pensa che nell'arco di una decina d'anni i food blogger, o comunque i blog che parlano di cucina, sono oltre 5.000. 5.000 in Italia? Esatto, e cominciano ad essere una presenza che si nota. Vuoi agli eventi, vuoi, cominciamo ad essere presi in considerazione dai produttori, dalle testate, diciamo, cominciamo ad esistere. E quindi secondo noi, che ci siamo organizzati circa un anno fa, c'era la necessità di darci anche un codice etico, perché quando parli di cibo alle persone non parli solamente di quello che piace a te o di quello che cucini tu, ma parli, come hai detto giustamente tu prima, parli di un'agricoltura, parli di un produttore, parli di una tradizione. Ed è giusto farlo in maniera consapevole e anche molto rispettosa. Ecco, voi siete fondamentali, credo, su questo, non solo per scoprire come cucinare delle cose, perché molto spesso abbiamo un prodotto, vogliamo trovare una ricetta nuova o capire come cucinarlo al meglio, e qui ci sono i food blogger, basta digitare il nome su internet, ci sono tantissime ricette con descrizioni proprio che ti guidano passo passo, ma anche proprio perché siete promotori della riscoperta di questi prodotti, appunto. Però a noi interessava in particolar modo parlare di Veneto e anche della ristorazione nel Veneto, cioè come grazie a voi, ma anche poi ai ristoratori, si promuovono questi prodotti tipici che ci interessano perché sono quelli prodotti appunto dall'agricoltura o da chi lavora nel territorio, e quindi sono ciò che cresce, ciò che anche può mettere in moto un'economia positiva nel territorio. Allora, molto spesso quando si organizzano, adesso si dice in termini un po' cool, tutta una serie di eventi, no? Per cui si fanno delle serate, si organizzano dei momenti, e il fatto di essere presente a questi incontri è anche un modo per divulgare in maniera immediata attraverso i social quello che sta accadendo in quel momento. Per cui, per esempio, se fino a qualche anno fa partecipavi ad un magari ad una serata di presentazione di un determinato prodotto e poi ne parlavi o con i tuoi colleghi o scrivendo magari qualche riga all'interno di una rivista più o meno specializzata o magari anche aperta al grande pubblico, ora attraverso i social tutto questo è più immediato, per cui posso assaggiare un piatto, lo trovo particolarmente gustoso, faccio la fotografia, la pubblico immediatamente su Facebook, su Instagram, su Twitter, su tutti i miei canali informativi, indicando magari il nome del prodotto, il nome del ristoratore, il nome dello chef che ha sviluppato questo prodotto e magari se è anche una serata di presentazione del produttore, questa informazione arriva immediatamente, magari a chi non sapeva che in quella determinata area, in questo caso nella nostra regione, c'è addirittura un produttore d'eccellenza che esporta questa sua produzione limitata in Inghilterra e arriva sulle tavole dei reali inglesi. Per cui io credo che da questo punto di vista la nostra opera, ecco come ti dicevo prima, deve essere molto responsabile, anche molto etica, perché hai anche una bella responsabilità. Perché coinvolgi il lavoro dello chef, il lavoro della sua brigata, il lavoro del ristoratore se non è direttamente lo chef e il certo. prodotto e il produttore che ci mettono tutta la loro forza e tutta la loro intelligenza anche per sviluppare un determinato prodotto, per promuoverlo, perché poi tutti questi momenti sono momenti per promuovere esatto, un determinato prodotto. Benissimo, ci fermiamo un attimo, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Give me some. Torniamo in linea con la trasmissione del Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di prodotti tipici e cucina. Stiamo parlando con Anna Maria Pellegrino, food blogger e presidente dell'Associazione Italiana Food Blogger. La ristorazione è il luogo dove i turisti, ma anche noi, le persone che abitano in un determinato territorio, spesso vengono a contatto con prodotti che magari non usano nella loro cucina quotidiana. Quindi è fondamentale il ruolo di un ristorante proprio come promotore del proprio territorio, in questo caso, attraverso i prodotti che propone. Assolutamente d'accordo, proprio per questo io mi sento molto, molto spesso particolarmente severa nei confronti di ristoratori della nostra regione, perché noi, e tu lo sai sicuramente meglio di me, abbiamo delle eccellenze meravigliose e dovremmo fare di tutto proprio per valorizzarle, anche in quelle città molto turistiche, come per esempio Venezia appunto, in cui spesso vedi delle proposte che hanno poco a che fare con quello che è appunto la nostra tradizione. Ma non perché si debba essere campanilisti, ma proprio perché bisogna promuovere e bisogna far uscire anche dalla propria regione quella che è la bontà di tutta una storia anche millenaria, se mi consenti, perché tu pensa appunto al baccalà. Il baccalà è un prodotto meraviglioso e bene o male viene cucinato da molti ristoratori, poi quando poi uno prepara o assaggia un piatto decide poi di consumarlo, di prepararlo appunto anche a casa, per cui un ristoratore, uno chef autoctono del luogo credo dovrebbe avere proprio come missione quella di far conoscere questa nostra incredibile materia prima. Ecco, questa materia prima però come la proponiamo? Cercando, riagganciandoci alla tradizione, innovando, oppure c'è un punto di equilibrio? Secondo me è importante un punto di equilibrio, perché se ti rivolgi ad un cliente che magari ha già una sua cultura gastronomica e anche una sua tradizione, non puoi pensare di presentare dei piatti troppo distanti dal suo sentire comune. Però se ti rivolgi ad una popolazione più giovane, e i giovani, ti parlo di 20-30 anni, sono molto curiosi di conoscere quello che è un po' andato perso e hanno proprio voglia di riscoprire delle tradizioni. Magari non gli puoi proporre, come succede nel Trevigiano, la trippa della domenica mattina che veniva mangiata dai signori all'uscita della messa, dopo che appunto dopo la messa giocavano a carte e si mangiavano la trippa in brodo. Però gliela puoi proporre, intesa come l'importanza del quinto quarto, delle frattaglie e di un certo tipo di valorizzazione di un prodotto, magari in una maniera diversa, magari strutturata, che ne so, all'interno di un sandwich o sviluppata con un patè, e poi un po' alla volta ti porto a raccontare e a provare che tuo nonno o tuo papà consumavano questo prodotto e che è buonissimo così, senza tanti, come dire, senza tante trasformazioni. Ma sai, per parlare ai giovani molte volte devi utilizzare un linguaggio con il quale si può essere in sintonia. Ecco, questi prodotti secondo te rimangono sempre una nicchia nel nostro territorio, oppure anche grazie a questa azione del vostro, dei blogger, della ristorazione eccetera, la promozione che viene fatta, diventare delle cose veramente importanti per l'economia territoriale, dell'agricoltura in particolare, oppure rimaniamo sempre alla fine sempre in qualcosa di nicchia? No, io vedo già, diciamo, con i contatti un po' che abbiamo e sento anche leggendo o confrontandomi con altre persone, che tutta questa curiosità e anche questo desiderio di scoprire prodotti di qualità è un desiderio sentito non solo da un numero limitato di persone, ma proprio da gruppi sempre più importanti. Noi siamo una regione a vocazione turistica, per cui dovremmo fare non solo del nostro territorio e del rispetto del medesimo, ma anche del nostro cibo una nostra vocazione. Per esempio, un'idea che mi viene in mente è quella di creare all'interno delle città o all'interno delle varie associazioni enogastronomiche o le varie accademie della cucina italiana dei veri e propri personal food. invece di avere il personal shopper che ti invita o ti suggerisce ad acquistare determinati capi d'abbigliamento o in prodotti calzaturieri o qualsiasi altra cosa all'interno delle città, perché no creare una task force di questo tipo che ti aiuti ad acquistare proprio il prodotto del territorio, a sapere che cosa c'è di caratteristico nel veronese o di viceversa cosa c'è di più più buono da acquistare nel trevigiano, nel veneziano o, perché no, nel padovano. Abbiamo di quelle eccellenze che sono addirittura titolate come presidio slow food, per cui eccellenze a tutti i punti di vista. Quindi magari formare dei giovani, e quindi belli, pimpanti, con tanta forza, che conoscono le lingue, per raccontare quanto di buono c'è nella nostra storia e anche nelle nostre tavole. Concludiamo con magari un consiglio. Qual è un piatto tipico che secondo te può rappresentare il Veneto, al di là forse dei più classici, più noti? Allora, una cosa che preparo e che preparerò fra 2 settimane a Siena, proprio per presentare tutto questo, è sicuramente l'insalata di gallina padovana, cotta in canevera, dove racconti la storia di questo tipo di cottura e poi appunto valorizzata con uvette e pinoli. Però in qualsiasi parte del mondo io sono andata, chissà perché, tutti conoscono il tiramisù. Assolutamente, ecco. Allora, grazie di essere stata con noi. Per chi vuole saperne di più, io do l'indirizzo internet del sito dell'Associazione Italiana Food Blogger, www.aifb.it. Grazie. Grazie a te. Abbiamo tempo ancora per una notizia che rimane in qualche modo in tema, perché l'annata agricola di quest'anno è destinata a essere ricordata come negativa proprio per gli alimenti della dieta tipica mediterranea. Infatti si è calata la produzione di vino, peggio è andata all'olio, il nostro olio extravergine di oliva, che con circa il 35% di meno in Italia e il 19% a livello mondiale. Ma gli effetti del maltempo si sentono anche nel raccolto di ortofrutta e del grano. Quello italiano, grano italiano, ha tenuto, il calo è solo del 4%, ma la nostra produzione nazionale della pasta dipende ancora in grande misura da cereali esteri ed europei. Quelli europei sono in calo del 10% e quelli del Canada, principale fornitore italiano, del meno il 27%. Tutto questo è quanto emerge da un'analisi della Coldiretti che è stata presentata in questi giorni in occasione della giornata del ringraziamento, un'occasione appunto nella quale tradizionalmente viene fatto il bilancio agricolo dell'anno in corso. In termini numerici, il conto sulle tavole degli italiani è di circa 2,5 miliardi tra calo produttivo, maggiori costi per la difesa delle colture e stravolgimento nei consumi. Con questo abbiamo terminato, vi diamo appuntamento con il Quadrifoglio alla prossima settimana, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, 4 elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.